Leggo. Nel campo della saggistica, nel 2008 c'è stato il boom dei libri sugli Stati Uniti. Prima l'analisi della figura di Hillary Clinton e la corsa alla Casa Bianca, poi quelli su Barack Obama. Un titolo per tutti, Obama, storia dell'uomo che fa sognare l'America, pubblicato in Italia da Cairo Editore. L'unica biografia ufficiale, così almeno fa sapere la casa editrice, scritta da un uomo del suo staff, David Mendel. Il fiorire di saggi sul presidente americano eletto e la sua famiglia proseguirà anche nel 2009. A gennaio uscirà per Castelvecchi Yes, She Can, la storia e la figura della nuova First Lady, dall'infanzia a Chicago, nel quartiere nero di Southside, alle università più prestigiose del paese. Ma fra i saggi che riguardano capi di Stato e di governo, vi segnaliamo Sarco-Berlusconismo, le due facce della rivoluzione conservatrice, scritto dal francese Pierre Mousseau, docente di scienze della comunicazione. In Italia è stato pubblicato da Ponti alle Grazie. Non è una critica alla politica del nostro Presidente del Consiglio, tanto che quando Mousseau è venuto in Italia la presentazione è stata organizzata alla presenza di alcuni ministri. Si tratta in realtà di un'analisi mass-mediologica sulle similitudini fra Sarkozy e Berlusconi, tanto che Mousseau ha coniato appunto un nuovo termine, il sarco-berlusconismo. Sentiamo allora in che cosa consiste, quali sono alcuni tratti di questa visione politica. Un tratto del sarco-berlusconismo è la personalizzazione molto accentuata e l'accentramento di tutti i poteri in un'unica persona. Berlusconi, uno degli uomini più ricchi d'Italia, maggior proprietario di media e leader politico di primo piano, detiene gli stessi poteri di Sarkozy alla guida dello Stato monarchico centralizzato. L'eroe sarco-berlusconiano annuncia di voler rimettere in piedi il proprio paese per reagire a una crisi e fronteggiare dei nemici fittizi: lo straniero, l'Europa, il comunismo, lo statalismo, eccetera. Altro tratto distintivo, quello che rappresenta il punto di forza del sarco-berlusconismo, è il suo raffrontarsi con un'opposizione di sinistra indebolita e divisa, se non completamente smarrita, senza una proposta alternativa, in bilico tra il centro-sinistra e l'estrema sinistra. Infine una segnalazione su un saggio anomalo. Anomalo perché non ha lo stile di un libro accademico, piuttosto invece di un libro ironico di consigli per i padri. Si intitola Manuale di sopravvivenza del padre contemporaneo, scritto in coppia da Gianni Biondillo e Severino Colombo, pubblicato da Guanda. C'è l'esperienza vissuta dei due autori raccontata con grande ironia, ma anche consigli pratici per gli uomini che vogliono essere padri presenti e che respingono con forza la definizione di mammo, come ci ha spiegato Biondillo. Qui bisogna stare molto attenti, il patrè non è il mammo. Noi non vogliamo allattare al seno i nostri figli, siamo molto coscienti del fatto che c'è un padre e c'è una madre. Quello che noi diciamo è che c'è un padre che per una volta tanto non è quel padre autoritario che era la figura paterna, forse che era precedente alla nostra, ma è un padre che vuole essere magari autorevole, che vuole condividere con sua moglie o con la sua compagna anche il piacere dell'affettività nei confronti dei figli. Domanda tandem per entrambi dunque, un consiglio da dare ai padri. Cambiate i pannolini. Cambiateli tante volte. No, ma sembra una stupidaggine, ma è una cosa molto seria, perché se tu cambi il pannolino a tuo figlio, poi quando sarà grande potrai anche decidere in quale università mandarlo. Se fai fare tutto a tua moglie, poi lei ha tutto il diritto di scegliere per te. Se volete riascoltare questa o le altre puntate dell'Albero dei Libri, se vi siete persi alcune delle segnalazioni editoriali che vi abbiamo fatto in questi giorni, potete andare sul nostro sito www.radio24.it e cliccare nella sezione L'Albero dei Libri. Una buona giornata da Alessandra Tedesco.